City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Da anni Rebuild, la piattaforma per l'innovazione nel mondo delle costruzioni che organizza l'omonima manifestazione, monitora con grande attenzione le nuove tecnologie, i nuovi paradigmi tecnologici nell'ambito dell'edilizia, e, insomma, i nuovi approcci progettuali anche quando questo riguarda i criteri finanziari, e ha una particolare attenzione a tutti quei processi che prevedono l'ibridazione tra comparto edilizio e comparto manifatturiero, che tra l'altro, passando per l'industria 4.0, sembra costituire il futuro delle costruzioni, e anche, diciamo, in qualche modo ridefinisce il contributo che l'industria può dare alla rigenerazione delle città. E allora, insomma, per farci raccontare quali saranno i casi più interessanti di quest'anno, torna come sempre a trovarci Thomas Miorin, presidente di Rebuild. Buonasera Thomas, bentornato. Buonasera a te e a tutti, è sempre un piacere tornare. Allora, intanto partiamo da questo tema, che è quello che vi sta più a cuore e che considerate il tema chiave oggi del mondo dell'edilizia, quello della produttività. Sì, noi abbiamo visto ricerche nazionali e anche internazionali che mettono a fuoco l'improduttività dell'edilizia oggi, che è ferma non solo in Italia, di fatto dagli anni 60, cioè un'ora di un addetto delle costruzioni degli anni 60 produceva 100, diciamo, euro equivalenti, oggi ne produce 89, quindi addirittura diminuita. E questo perché? E soprattutto come si può cambiare questa situazione? Ci sono diversi approcci per incrementare la produttività delle costruzioni. C'è chi applica le tecniche della lean production alle costruzioni con un approccio lean leggero, snello, quindi facendo arrivare per esempio i materiali in cantiere, evitando sprechi, progettando tutto molto attentamente, certo. Sì. Però ci sono anche approcci, diciamo, un po' più innovativi, disruptive, che appunto, come raccontavi tu, ibridano l'edilizia con la manifattura, con l'industria. Perché... Ecco, ce n'è uno, un caso veramente che lascia un po' bocca aperta, che voi portate, che riguarda un'azienda italiana che, insomma, si è inventata un metodo per produrre un hotel al mese. Sì, noi siamo sempre andati in giro a livello internazionale a cercare questi casi. È incredibile che il caso che ci ha colpito di più è un caso italiano, un caso bresciano. IKEA un po' di tempo fa voleva costruire, investire, diciamo, nell'immobiliare, costruendo hotel vicino agli aeroporti di tutta Europa, e cercava un costruttore che costruisse e realizzasse questi hotel in modo intelligente, vicino alla filosofia di IKEA, sostenibile ma anche leggero, perché non smontabile. È andata in Austria dai grandi costruttori del legno, ma non sono riusciti a tirar fuori il cilindro dal cappello. Invece a Brescia ci sono riusciti, no? In Brescia ci sono riusciti, non a caso probabilmente siamo anche la seconda manifattura sì, europea. A Brescia un'impresa di costruzioni del gruppo Nulli, si chiama Wood Beton, e in particolar modo l'ingegner Spatti ha identificato una serie di soluzioni, di fatto realizzando una combinazione di componenti a due dimensioni e di componenti a tre dimensioni, che integrano anche la parte impiantistica e diverse componenti dell'hotel. E questo ha dato la possibilità, attraverso queste componenti, di realizzare con grande flessibilità anche progettuale hotel in modo veloce, che non vengono però realizzati in cantiere. E applica, diciamo, l'approccio dell'edilizia ibrida, ovvero che, come dicevamo prima, è ibrida edilizia e manifattura. Diciamo che fa degli alberghi in scatola di montaggio, possiamo dirlo così? Sì, è una fabbrica, sì. Una fabbrica nella quale vengono prodotte di fatto una camera all'ora. Io quando sono andato a trovarli avevano tre hotel a magazzino. Fantastico, sì. che è un concetto strano, uno dice, come un hotel in magazzino, cosa vuol dire? Ecco. Però rende bene l'idea, sì. Appunto. Sì. Ecco, quindi un processo basato su che tecnologie? Legno, no? Principalmente legno, ma anche le fondamenta, che ovviamente sono di cemento, vengono anch'esse prefabbricate. Ha realizzato una filiera molto veloce, sia a monte ma anche a valle, perché tra l'altro tutte le componenti vengono trasportate su trasporto ordinario, non c'è niente di eccezionale. Questo è stato anche uno dei segreti del successo a suo tempo di IKEA, no? Il fatto che tutte le parti fossero facilmente trasportabili. Certo, su una scala diversa è lo stesso concetto. Questa storia è una storia di abbastanza sorprendente di impresa, anche per il modo in cui sono andate le cose dal punto di vista degli investimenti. Se ce lo racconti brevemente, e anche quali sono i futuri sviluppi che già si possono intravedere. Beh, IKEA ha investito circa 1 miliardo di euro in questa partita e quindi è una posta importante per la nostra economia sicuramente. Non li ha investiti però chi ha messo in piedi l'azienda, ho capito bene? Certo, perché sì, perché IKEA di fatto ha comprato 10 anni di produzione da questa azienda. Ecco, quindi questo per dire, si ritorna sempre al fatto che i fondamentali sono innovazione e capacità di fare impresa, ancor più che l'immediata disponibilità di capitali. Ecco, vediamo al futuro. Il futuro è ancora più interessante perché IKEA a questo punto, visto il successo di questa linea produttiva, diciamo, vuole investire, ha annunciato proprio all'ultimo Rebuild a Milano, di investire anche nel residenziale con lo stesso approccio. Ecco, il rischio, questo è senz'altro un caso eccezionale, ma che queste operazioni vengano percepite, no, come classiche oasi nel deserto o qualcosa del genere. Ci sono altri casi comunque positivi di questo approccio in Italia? Ecco. Ce ne sono, fortunatamente, altrimenti la concorrenza che avrà l'industria delle costruzioni italiane di fronte a IKEA sarebbe veramente schiacciante. Fortunatamente ci sono diversi casi, ci sono, diciamo, componentisti, c'è un'impresa veneta, Open Building, che costruisce di fatto bagni completamente arredati che poi spedisce in tutto il mondo con piastrelle e altre componenti di qualità italiana, visto che poi la manifattura anche per l'installazione di queste componenti non è sempre all'altezza, gli artigiani italiani insomma sanno fare il loro lavoro. Quindi insomma sono dei combinati che vengono attaccati a una parete sostanzialmente, con già dentro tutti i tubi, con i sanitari attaccati, è una cosa di questo genere? Sì, sono dei bagni completamente finiti, quindi dei moduli a tridimensionali che vengono poi spediti e hanno anche dei sistemi molto ingegnosi per l'installazione, nel senso che sono trasportabili da una singola persona con un carrello speciale, scivolano all'interno dell'immobile grazie a sono sottodimensionati leggermente e quando vengono impilati nel luogo in cui vengono posizionati i servizi, di fatto chiudono già anche la parte impiantistica, quindi risolvono anche il problema. Un altro caso. Ci sono dei casi anche molto interessanti per quanto riguarda il nuovo, le nuove costruzioni, anche se sappiamo che poi il futuro è principalmente la ricostruzione. Uno mi piace citare, è un caso pubblico, qualche anno fa Cassa Depositi e Prestiti ha investito su un progetto che si chiamava Progetto 10.000, volto a raccogliere le migliori esperienze, diciamo, di produttività per l'housing sociale e di capacità in termini di costo e di qualità. Bene, hanno trovato, raccogliendo e anche ibridando alcune di queste esperienze, delle modalità di costruire housing sociale, diciamo, a 900 euro a metro quadro, con delle ottime performance sia per la qualità della vita dell'individuo all'interno, ma anche performance energetiche. E già con la prima operazione, questi 2 milioni di euro che hanno investito, quindi sono entrati grazie al minor costo al metro quadro delle abitazioni. Quindi sono stati risparmiati circa 200 euro a metro quadro. Va bene, grazie Thomas Miorin. Anche l'Italia insomma si dà da fare tutto sommato. Grazie a voi, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana, ma intanto rimanete con noi.